con Magic Power. Chissà quale brano sceglieremo della loro discografia questo venerdì, perché non dimenticate, questo venerdì dalla mezzanotte in avanti, venerdì 16, Marco Gravelli, Max De Rio, ci sarà anche Luca Marchetti alias Witching Hour a tenervi compagnia con ben 6 ore di musica che spazia dall'hard rock al metal più estremo, quindi con l'inclusione proprio di Witching Hour avrà anche lui uno spazio di 60 minuti con Venom Slayer, Death Company. Naturalmente quindi saremo con voi per tutta quella nottata, un nostro piccolo regalo in più in queste ultime settimane di vita di Rock FM. Non dimenticatelo allora, Hard and Heavy Nightmare allo scoccare della mezzanotte di questo prossimo venerdì 16 di maggio. Californiane, questa California Girls per Beach Boys, ed ora invece una voce femminile, quella di Siouxsie con il suo gruppo The Banshees, questa è Cities in Dust.

Whoa.